dove fuori dal tempo, da questa mia gabbia, con nulla da fare, perché ciò fa bene sognar di volare. Io voglio restarmene qui. Vivere senza rimorsi e zero rimpianti, sapendo di scegliere sempre la strada migliore da fare, viaggiando per sempre. Io voglio restarmene qui. Con le mie parole, con tutti i miei sogni, perché sto vivendo, sto crescendo, con i miei pensieri, con le mie passioni, perché sto vivendo, perché sto crescendo. Sto crescendo.